musica più lenta che pace che spera, veloce per più lenta, violenta e sincera. Musica più lenta che mace che spera, veloce per più lenta, violenta e sincera. Chi viaggia poco resterà piccino. Il cammino di Gigi D'Agostino. Sono solo delle scelte momentanee degli ascoltatori. Il sondaggino di Gigi D'Agostino non è proprio una classifica. Una canzone la scegli in base a come stai, a dove vai, a cosa sei in quel momento. In quel momento. Quindi il risultato del sondaggio di questa settimana descriverà il vostro, il nostro, perché ho votato anch'io, stato d'animo della settimana appena trascorsa. Numero 20. Artista. Uomo suona. Titolo. Más fuerte. Fermiamo un attimo per cambiare rotta. Bello, bello, bello questo qua. Cos'è? Una novella. Mi piace. Artista. Lento, violento, man. Man. Violento, man. Lento, man. Violento, man. Sì, sì, ho capito. Posizione numero. Numero 19. bella Gigio. Sì. Numero 18, Why Me? Dos. Bye. D'Agostino dal vivo questa sera, sabato 25 marzo 2006, ore 23, discoteca Millennium, Gewerbe Parkstrasse 22, Gewerbe Parkstrasse 22, località Krems, Austria. Ci vediamo lì. Ma torniamo a noi. Posizione numero... Numero 16. Non giochiamo. Dottor Dag. Fatico molto a passare da una condizione di sonno molto protratto a uno stato di veglia totale. Ginnastica mentale. Fatico, ginnastica mentale. Fatico molto a passare da una condizione di sonno molto protratto a uno stato di veglia totale. Ginnastica mentale. Numero 15. Techno Waltz. Bello, bello. Artista. Orchestra Maldestra. Versione. Electro Boss, Adam Bound, Techno Boss, Take the Dub. nasce dal buio e ci conduce, sembra banale, ma è reale. Aprile 2006, dal vivo, musica e ritmi di Gigi D'Agostino e Luca Nois, ore 22:30, festa delle scuole, discoteca Privilege, via Torino 80, località Airasca, provincia di Torino, discoteca Privilege. Mercoledì 12 aprile 2006. Musica e ritmi di Gigi D'Agostino e Luca Nois. Artista. Il folclorista. Titolo. Posizione numero... Numero 13. Che la musica diventi movimento e non ci fermeremo ora e mai un momento. Senti che treno, neanche in curva io rallento. Sabato alle 9 di sera su N2O e ogni giovedì special guest DJ set. Questa settimana Flor Filla. È uscita Ibiza Party, la compilation dell'isola più trendy del mondo. Ibiza Party, l'unica con Deep Dish, Shape Shifter, Freemason, Martin Solveig. La vera musica di Ibiza è tutta qui. Solo 7,90€ in edicola e nei negozi di dischi. Ibiza Party! M2O Cube. Sei pronto?

Ascoltando fantasia, artista, entropia sonora, posizione numero 10. Cosa c'è dentro di te? Un sogno che D'Agostino, Gigi D'Agostino, dal vivo, questa sera, sabato 25 marzo 2006, questa sera, ore 23, discoteca Millennium, Geverbe Parkstrasse 22, località Krems, Austria. I can feel in my heart that you need me tonight. You'll be only the one. You are my baby. I can feel in my heart that you need me tonight. You'll be only the one. You are my baby. Forte, forte, forte, forte, forte, è bello questo qua. Yes. sleeping, way in your bed. And I'm here, I'm thinking what you say. A long time away, but always the same in my heart. A long time away, but always the same in my heart. For your face, think of you. E Luca Nois. Gigi D'Agostino e Luca Nois. Dal vivo. Mercoledì 12 aprile 2006. Ore 22:30. Mercoledì 12 aprile 2006. Festa delle scuole. Discoteca Privilege. Via Torino 80. Località Airasca. Provincia di Torino. Provincia di Torino. Gigi D'Agostino e Luca Nois. bella, mi piace questa qua, è forte, forte, molto forte questa qua, dimmi un po' di chi è. Federico Romanzi. Titolo? Cielo. Solo un abbaglio, non c'è canzone senza uno sbaglio. pubblicità. Tararatata. Pubblicità. Tararatata. Pubblicità. Tararatata. Pubblicità. Tararatata. M2O Diabolica. Inferno House. M2O, sabato 25 marzo all'Energy Disco Club Ciampino, Diabolica Sound System, Paolo Bolognesi, Emanuele Inglese. M2O Diabolica, Inferno House di M2O. DM2O, sabato 25 marzo all'Energy Disco Club Ciampino e in FM, in diretta da mezzanotte su M2O. Finalmente è arrivato Samsung SGH X200, il telefono perfetto per chi cerca stile e funzionalità essenziali. La sua forma conchiglia racchiude tutto ciò che vi aspettate da un cellulare tribenda. Viva voce integrato, suonerie polifoniche e memo vocali. Samsung X200, un classico per chi vive in movimento. Provatelo nei negozi Wind e di telefonia. Samsung, that's the way I like it. Spirito di caparezza, noi ti invochiamo. Si sente sempre più spesso che sono un pazzo depresso. Abemus Capa, il nuovo album di Caparezza. IGE presenta PES League, il campionato di Pro Evolution Soccer, il videogioco di calcio in cui il campione sei tu. Dimostra di essere il migliore. Corri, costruisci l'azione e segna. PES League, partecipa al campionato italiano. Vinci! E vai al PES European Championship e all'Electronic Sports World Cup. PES League, il campionato di Pro Evolution Soccer. Domenica 26 marzo al Bar Sport Leno Brescia. Info PESLeague.it o PES5.it. Commissione veloce. Tira Dario che è un deficiente, ciao! Ciao Tina, ti amo da morire, amore mio. Un saluto a Valentina Lai di Luserno San Giovanni, provincia di Pinerolo, da parte di Massimo Lodi, via Prioca. Ciao Valentina, ti amo. 800-800-626 M2O. Pronto? Moshimoshi, gokudesu kedo, nani shite no? Doko ni iru no? Sta arrivando? Ma chi, io? Ti aspettiamo, kori, manchi solo tu. Arrivo. Quando sarai un mediatore linguistico, tutto il mondo ti cercherà, perché sarai un indispensabile esperto in lingue e culture straniere. Forza allora! Sabato 1 aprile vieni alle giornate di orientamento alla Scuola Superiore per Mediatori Linguistici Carlo Bo, nelle sedi di Milano, Roma, Bologna, Firenze e Bari. Info www.mediatorelinguistico.com, numero verde 800-433-433. Cori, cori! Out of Mind, Provinzano DJ, per sabato 25 marzo hanno selezionato Discoteca Follie Caffè Sondrio. M2O dal vivo. Real Trust e Roberto Molinaro per sabato 25 marzo hanno selezionato Discoteca Ultimo Impero, Magliano Alpi, Cuneo. M2O dal vivo! Il programma col cuore di un bambino è il cammino di Gigi D'Agostino. Poco resterà piccino il cammino di Gigi D'Agostino. Numero 3. Artista Gigi D'Agostino. Titolo Don't Cry Tonight. Minutaggio non pervenuto. Versione Gigi e Luca Tanz. Never, never let me go with every melody. You want to ever live in just my life. If you really know the target and back to my fantasy, me too. When you need to.